Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Calcio scommesse, tra i nuovi arresti anche Andrea Masiello. Mai così tanti disoccupati, 9,3% tra i giovani, il 31,9% senza lavoro. Riforma del lavoro, Bersani media sull'articolo 18. Monti ai cinesi, ecco la nostra riforma sul lavoro, concilia flessibilità e sicurezza. Buongiorno dalla redazione, da Laura Bettini. Quindi 300.000 euro per truccare il derby Bari-Lecce è quanto avrebbe incassato Andrea Masiello, che durante la partita fece un clamoroso autogol, un risultato che permise ai salentini di centrare la salvezza con un turno di anticipo. Con Masiello accusato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, sono finiti in carcere due scommettitori suoi amici. Nel mirino degli inquirenti 9 partite truccate, 20 le persone indagate, e tra loro altri calciatori. Masiello è già stato sospeso dall'Atalanta, come spiega il direttore tecnico Pierpaolo Marino al microfono di Katia Caramelli. Da quando la vicenda è scoppiata, dal 15 gennaio in poi, l'avevamo sospeso con un provvedimento di autotutela che nessuno finora ha adottato, quindi noi siamo particolarmente feriti dalla vicenda precedente, che già ci vede pagare 6 punti di penalizzazione, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, d'accordo la società con l'allenatore, di sospenderlo da ogni attività. Quindi, per quanto tecnicamente lui era un giocatore importante per noi, non ci abbiamo pensato su due volte a rinunciare alle sue prestazioni in questo periodo. Quindi già mi pare che sia un provvedimento che la dice tutta su quello che è l'atteggiamento dell'Atalanta, che poi questa volta non è direttamente coinvolta nella vicenda, se non assolutamente danneggiata sia da un punto di vista patrimoniale che tecnico. Siamo stati danneggiati anche dalla vicenda precedente, però lì, grazie a Dio, stiamo pagando con onestà, con serietà e con una squadra che combatte sul campo la nostra punizione. Siamo gli unici a certi livelli ad aver pagato così pesantemente per la vicenda che ha riguardato il nostro ex capitano Doni, e ora siamo in attesa che, siccome il fenomeno, da quello che si vede, non riguardava soltanto l'Atalanta, siamo in attesa che, così come abbiamo pagato noi, paghino tutti quelli che sono coinvolti. Sentiamo il commento di Dario Ceccarelli. Da Bari arrivano tam-tam sinistri per il calcio italiano, alle prese con uno scandalo dai contorni sempre più inquietanti, su cui indagano ben 3 procure. L'arresto di Andrea Masiello, ora all'Atalanta, ma incriminato per la combin tra Bari e Lecce e i suoi 2 soci, sembra solo il primo macigno di una valanga che potrebbe rivoluzionare i prossimi calendari di A e di B. Il presidente Giancarlo Abete annuncia processi sportivi rapidi e diverse società che temono la responsabilità oggettiva già sudano freddo. E se l'Atalanta, che ha già pagato tanto, qualche ragione ce l'ha, per le altre è tutto da vedere. Quello che emerge da questo fango è un malaffare sempre più diffuso, che dalla periferia del calcio, coi suoi schizzi, risale fino al centro. L'unica differenza rispetto ai pochi gloriosi anni Ottanta è che nella rete finora non sono cadute figure di primo piano. Col suo degrado morale, il calcio italiano è lo specchio del paese, ma questo scandalo va addirittura oltre i confini nazionali, arrivando fino a Singapore. Ci siamo globalizzati, ma solo nelle truffe. Dario Ceccarelli, Radio 24, il sole 24 ore. Cambiamo argomento. Il tasso di disoccupazione a febbraio è stato del 9,3% secondo l'Istat, ma quello che preoccupa è il tasso di disoccupazione giovanile per le persone che hanno tra 15 e 24 anni, quindi, che a febbraio è stato del 31,9% e nel quarto trimestre 2011 del 32,6%. Valentina Furlanetto ha sentito il responsabile dell'indagine, Mario Albissini. La situazione complessivamente del mercato del lavoro è una situazione che si presenta difficile, c'è una discesa dell'occupazione e una crescita della disoccupazione che continuano a caratterizzare il mercato del lavoro. In questo quadro, quelli che ancora soffrono in modo particolare sono i giovani, sicché il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni si è portato nel mese di febbraio al 31,9%. è un dato particolarmente elevato che non riscontravamo dall'inizio delle serie mensili, cioè dal gennaio del 2004. Si pensi che nell'arco appunto di un anno il tasso di disoccupazione aumenta di poco più di 4 punti percentuali, quindi è un incremento particolarmente sensibile. La riforma va salvata sia al reintegro e votiamo prima di maggio. Il segretario del PD Pierluigi Bersani lancia un appello al Premier in una intervista a Repubblica. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Si rivolge al Presidente del Consiglio Monti, apre sull'articolo 18 perché spiega non possiamo mandare all'aria la riforma sul lavoro. Dalle pagine di Repubblica il segretario del Partito Democratico cerca di rompere lo schema dei fronti contrapposti che si è creato sulle modifiche alla disciplina dei licenziamenti. Per Bersani si tratta infatti di una buona riforma se ne si corregge qualche aspetto. Il leader PD si dice quindi pronto a mettere sul tavolo della trattativa alcune delle richieste del Popolo della Libertà sulla flessibilità in entrata, soprattutto spiega se si tratta di alleggerire un certo carico burocratico. Bersani preme principalmente per trovare un punto di equilibrio e per approvare il testo in tempi rapidi, anche prima di maggio. Il nodo principale, conferma Bersani, è quello dell'articolo 18, va previsto il reintegro del lavoratore secondo il modello tedesco, ma non per lasciare le cose come stanno. Di qui l'ottimismo del segretario del Partito Democratico. Io vedo la possibilità, spiega Bersani, di un punto di caduta condiviso in Parlamento e lo scenario di un incaponimento del governo non lo prendo nemmeno in considerazione. E da Roma è tutto. Molto bene, grazie a Vincenzo Miglietta. Dall'Asia, sul tema lavoro parla il Premier Mario Monti. La scorsa settimana abbiamo introdotto una riforma allo scopo di modernizzare la rete di sicurezza sociale per i lavoratori, aumentando al contempo sensibilmente la flessibilità per le aziende nella gestione della forza lavoro. Così Monti. Ma c'è anche l'IMU a creare tensione nel governo. I centri di assistenza fiscale sollecitano l'esecutivo o direttive immediate o proroga del provvedimento, altrimenti si rischia il caos. Mancano anche le scelte dei comuni sulle aliquote. L'unica cosa certa è che la stangata sulla casa arriverà, ma nessuno sa come e soprattutto quanto deve pagare. Il termine formalmente indicato è infatti previsto per il 16 giugno, che però essendo un sabato dovrebbe slittare a lunedì 18. Ma ciò che preoccupa è il fatto di non conoscere le aliquote che adotteranno i comuni. Questi infatti paradossalmente avranno tempo fino al 30 giugno, ben oltre la data di scadenza del primo pagamento dell'IMU. E finora, complici l'amministrativa alle porte, solo il 6% dei comuni ha deliberato la nuova aliquota. Per questo i CAF, i centri di assistenza fiscale, hanno lanciato l'allarme chiedendo soluzioni entro Pasqua e suggerendo o una norma che permetta di pagare solo il 50% dell'IMU base o un rinvio del pagamento a luglio dopo che i comuni avranno stabilito le nuove aliquote. Senza un chiarimento il rischio potrebbe essere quello della duplicazione delle pratiche con un colossale ingorgo agli sportelli dei CAF, chiarimento che potrebbe arrivare con un emendamento del governo al decreto fiscale che oggi verrà votato in commissione bilancio del Senato e che domani approderà in aula. Dunque potrebbe anche essere solo questione di ore. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo intanto Valeriano Canepari, coordinatore della consulta dei CAF, cioè i centri assistenza fiscale, al microfono di Valeria De Rosa. La possibilità di pagare l'acconto IMU entro il 15 di giugno sul 50% delle aliquote basi stabilite dalla legge nazionale e fare poi il conguaglio a dicembre senza sanzioni per i contribuenti che pagheranno quel di più o quel di meno sulla base di ciò che i comuni nel frattempo delibereranno. È una soluzione che ha comunque bisogno di un intervento legislativo? Sì, sarebbe sufficiente un emendamento al decreto fiscale che sta per andare in aula al Senato. Noi potremmo cominciare già a operare, salvo il secondo problema, cioè la definizione del nuovo modello F24 per pagare questo tributo che ad oggi non è ancora stato emanato, ma anche qui deve essere un atto dell'Agenzia delle Entrate. Io credo che Agenzia delle Entrate, ancora ANCI, Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia si trovano in poco tempo, sono in grado di confezionare questo strumento che ci consenta di stampare le deleghe per il pagamento dell'IMU. È una contraddizione nei termini, perché se i comuni dovevano deliberare entro il 30 giugno e uno deve pagare entro il 15, è ovvio che c'è un problema. C'è di più, perché Uno degli emendamenti presentati al decreto fiscale contiene la possibilità che i comuni possano modificare le loro delibere fino al 30 settembre. Si decide delle norme legislative senza avere la consapevolezza di quello che succede nella loro gestione. Questo è il grave problema che abbiamo. Quindi abbiamo sentito riforma del lavoro, IMU e poi c'è anche la lotta all'evasione. Sono molti i fronti caldi della maggioranza. Ne parliamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto bisogna dire che sarà probabilmente rinviato a dopo Pasqua il vertice tra il Premier Mario Monti e i leader della maggioranza, un vertice che tutti quanti attendono, ma il ritorno del Presidente del Consiglio dall'Asia pone molti problemi da risolvere a breve. Prima tra tutti la riforma del lavoro e l'appello che abbiamo sentito precedentemente del segretario PD Pierluigi Bersani. Il leader PDL Angelino Alfano sprona per una soluzione comune, fare insieme la riforma del lavoro è meglio che farla separati. Il problema, dice Alfano, è cosa si fa se la CGIL dice no, non vogliamo che la riforma la faccia il sindacato ma il Parlamento. E tensioni tra governo e maggioranza ci sono anche sul disegno di legge anticorruzione, sulla norma riguardante la responsabilità civile dei magistrati e anche la riforma delle intercettazioni. Sull'IMO questa mattina interviene il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Il nostro primo impegno sarà contenere l'aumento delle quote IMU e IRPEF, dice il sindaco di Roma. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e ci avviamo alla chiusura di questa prima parte di GR24 con Deborah Rosciani. Facciamo il punto insieme su come vanno i mercati. Buongiorno. Buongiorno, situazione che è partita male in Europa questa mattina, settimana che è partita male. Milano e Madrid sono le peggiori piazze d'Europa, si avvicinano a perdere un punto e mezzo, -1,25 adesso per Milano, mentre le altre piazze sono contrastate. Addirittura è positiva Francoforte, +0,2, -0,2 Parigi, Londra, -0,11%. Che cosa succede? Che c'è incertezza perché i listini risentono ancora dei timori sulla situazione finanziaria dei paesi periferici dell'Eurozona, in particolare la Spagna, e dei dubbi sull'efficacia delle misure approvate nel weekend dall'Eurogruppo a Copenaghen. A soffrire particolarmente oggi sono le banche, soprattutto a Piazza Affari, sono tutte protagoniste di vistose discese fra il 3 e il 4%. Perde terreno anche la galassia Fiat perché stasera verranno comunicati i dati sulle matricolazioni in marzo. Il mercato già ha preannunciato un vero e proprio tracollo per le vendite, -40%, secondo quanto ha indicato Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat. Euro su dollaro a 1,3344, lo spread è leggermente al di sotto di 320 punti base. È tutto. Alle 13:16 continuiamo con le notizie del giorno. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato ovviamente di calcio, scommesse, 300.000 euro per truccare il derby Bari-Lecce, quanto avrebbe incassato Andrea Masiello, ex difensore del Bari, arrestato oggi insieme a due amici scommettitori. Mai così tanti disoccupati, 9,3% secondo l'Istat, il 31,9% dei giovani è senza lavoro. Sulla riforma del lavoro interviene intanto Bersani. Va salvata, dice il segretario del PD, sì al reintegro e votiamo a maggio. Infine caos IMU, la tassa sulle case, i CAF chiedono chiarezza o proroga dei termini. Ed ora andiamo all'estero, è l'inizio di una nuova era, così la leader della opposizione birmana Aung San Suu Kyi ha commentato la sua elezione in Parlamento e il trionfo della Lega Nazionale per la Democrazia in un discorso nella sede del partito. Il premio Nobel per la pace ha auspicato la collaborazione di tutti i partiti per creare un'atmosfera veramente democratica. Signora, noi crediamo che ora lei sia l'unica persona che può condurre la Birmania alla democrazia. Potrà Aung San Suu Kyi cambiare il suo paese dall'interno del Parlamento, conducendolo alla democrazia, come pronosticato dal recentissimo film di Luc Besson? Tutte le speranze di una primavera birmana sono ora riposte nel premio Nobel per la pace, che ieri ha ottenuto, insieme al suo partito di opposizione, una vittoria storica nelle elezioni supplettive. Risultati ufficiali ancora non ve ne sono, ma a quanto è dato capire, la leader birmana ha stravinto nella sua circoscrizione elettorale con un plebiscito prossimo al 100% dei voti, conquistando per sé uno dei 45 45 seggi in palio. Più in generale, il suo schieramento, la Lega Nazionale per la Democrazia, appare, secondo indiscrezioni, in vantaggio un po' ovunque. Ovviamente non cambierà nulla nell'immediato, in un Parlamento saldamente stradominato dalle forze politiche vicine all'esercito, ma il segnale è forte e potrebbe aprire crepe importanti nel regime di dominio incontrastato dei militari, come pure determinare una precipitosa marcia indietro nel processo di riforme inaugurato dal presidente Thein Sein. Ieri i sostenitori dell'opposizione hanno festeggiato un risultato storico, ora si attendono le percentuali ufficiali, mentre sia l'Europa che gli Stati Uniti si congratulano e parlano di un segnale incoraggiante, anche se né Bruxelles né Washington per ora si sbilanciano sull'eventuale rimozione delle sanzioni al paese, ma comunque andrà, la Birmania intravede adesso una speranza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È di almeno 11 morti il bilancio delle violenze scoppiate oggi in numerose province siriane, tra cui Dara e Idlib, così hanno reso noto fonti delle organizzazioni siriane per la difesa dei diritti umani. Ieri però si è concluso il vertice di Istanbul sul futuro della Siria e le conclusioni e il commento di Alberto Negri. Cosa succede se naufraga il piano ONU di Kofi Annan per la Siria? Dalla conferenza di Istanbul degli amici della Siria, 82 paesi e organizzazioni internazionali, non è venuta una risposta chiara. Il presidente siriano Bashar Assad ha accettato formalmente le proposte delle Nazioni Unite, ma senza applicarle. Per questo la dichiarazione finale di Istanbul chiede che il piano Annan sia associato a un calendario preciso e stringente. Assad prende tempo nella speranza di soffocare la rivolta. L'Occidente e gli Stati Uniti vogliono evitare un intervento militare, mentre il fronte arabo si presenta diviso. I paesi del Golfo, per esempio, vogliono armare subito la guerriglia e distribuiranno al Consiglio nazionale siriano, il fronte dell'opposizione, i fondi per pagare i combattenti. Ma senza un impegno della Russia e della Cina sarà difficile un'iniziativa internazionale davvero efficace, lo ha sottolineato anche il sottosegretario agli esteri Marta Dassù. E allora? Continueremo a vedere la gente morire e aumentare l'ondata di profughi senza portare un aiuto umanitario alla popolazione. L'impressione è che il destino dei siriani sia stritolato nella morsa delle strategie regionali degli Stati Uniti, della Turchia, dell'Iran, oltre che di Mosca e Pechino. Ancora una volta le decisioni passano sopra le teste degli arabi, che ricorreranno a tutti i mezzi possibili per sostenere la guerriglia. Le conseguenze, come in ogni caos medio orientale, sono imprevedibili. Andiamo in India. Il magistrato che istruisce il processo di Kerala contro i Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ha disposto altri 14 giorni di custodia giudiziaria ed ha autorizzato la polizia ad interrogare i due militari davanti alle autorità competenti su quanto accadde sulla Enrica Lexi il giorno in cui furono uccisi due pescatori indiani. Intanto giunge notizia che è stata rinviata di un altro giorno la sentenza per il rilascio della petroliera. È scattato il pressing degli ambientalisti per difendere le fonti di energia rinnovabili. Sul banco degli imputati per i rincari della bolletta elettrica si moltiplicano, in attesa dei rincari annunciati per maggio, le voci di due decreti in arrivo che taglierebbero drasticamente gli incentivi per le rinnovabili. Il ministro Clini è intervenuto ieri a difesa di quest'ultime, ma lo scontro è acceso. Questa mattina a Prima Edizione a chiedere interventi è stato Cesare Fera, presidente di ANEST, l'associazione che riunisce le aziende che si occupano di solare termodinamico. L'intervista di Anna Migliorati. Se già si inserisce il costo dell'inquinamento, un altro costo importante è il costo della sicurezza degli approvvigionamenti. Cioè, se andiamo avanti con gli idrocarburi, cioè gas e petrolio, dipenderemo sempre dalle politiche estere. Viceversa, con le energie rinnovabili sono sempre ed esclusivamente energie nazionali, cioè il vento e il sole vengono prodotte sul territorio nazionale. È difficilissimo in effetti stabilire qual è il prezzo giusto, il costo sulla bolletta e il costo per il paese, e per quanto stimi molto il ministro Passera, dovrebbe dar fiducia alla lunga esperienza del ministro Tini sulla gestione delle rinnovabili per evitare di fare errori che possono rappresentare un risparmio. È vero che comunque c'è stata una quota di speculazione? Sicuramente sì, ci sono stati degli errori fatti in passato su alcuni settori, nel senso che si sono fatti dei prezzi troppo alti. Non si può però, di un errore del passato, compromettere tutto il settore. Sono 100.000 posti di lavoro creati dalle energie rinnovabili, e c'è una riduzione della bolletta energetica, cioè i 60 miliardi che spendiamo ogni anno per comprare petrolio e gas andranno via via riducendo con l'entrata in funzione di impianti di energie rinnovabili, e in più una filiera nazionale specie nel termodinamico, che oggi è ancora una filiera nazionale, che potrà rappresentare una voce importante di esportazione. E siamo a Paese Sommerso, la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Auto di grossa cilindrata, villa da 300 metri quadri e una dichiarazione dei redditi che non superava i 3.500 euro lordi l'anno. Non è stato difficile per i finanzieri di Portogruaro farsi venire dei sospetti. Considerato il tenore di vita dell'uomo e l'attività della sua azienda vinicola, i finanzieri hanno stabilito che avrebbe dovuto dichiarare almeno 50.000 euro l'anno. E quindi per l'imprenditore del vino di Portogruaro è scattato l'accertamento. L'episodio, che risale a un mese fa circa, non è isolato. Basta spostarsi a Colleferro, nel Lazio, e si scopre che appena tre giorni fa un'azienda che distribuisce vino al dettaglio nella regione era totalmente sconosciuta al fisco e priva degli apparecchi di misurazione fiscale per il rilascio dello scontrino. I ricavi non denunciati ammontano a 16 milioni di euro più 5 milioni e mezzo di IVA. Inoltre 26 lavoratori erano in nero. L'estate scorsa invece nel mirino degli 007 è finita un'azienda vinicola di Cerignola che aveva evaso oltre 5 milioni di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continuano le manifestazioni di solidarietà per l'ex sindaco del comune calabrese di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta, 57 anni, farmacista, che si è dimessa venerdì scorso dopo essere stata vittima di una nuova intimidazione. Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, ignoti avevano sparato infatti alcuni colpi di pistola contro la sua automobile. Anna Marino ha intervistato Maria Carmela Lanzetta. La solidarietà veramente è utilissima, fa molto bene, perché sentirsi da soli è veramente terribile. La spinge a rivedere la decisione oppure no? No, per adesso no. La mia candidatura è assolutamente casuale, la prima. Eravamo un gruppo di cittadini con della grande passione politica, ma senza esperienze politiche di partito. Si sente un eroe ad aver resistito fino adesso? No, per niente, no. E a me sembra di aver fatto sempre troppo poco. La sua decisione deriva anche dalla paura un po' per la sua famiglia? Io non ho paura, però sento la consapevolezza di dover difendere i miei ragazzi. Se fare politica o fare misera amministrazione in un piccolo paese della provincia di Reggio Calabria non consente di avere quella sicurezza e quella normalità sia nell'amministrare e sia nel condurre la vita familiare, allora è veramente inaccettabile, quindi tanto vale farsi da parte. Siamo persone che vogliamo soltanto la normalità e basta. Per quanto riguarda gli episodi che sono successi, cos'è che l'ha colpita di più? L'assoluta impunità e l'assoluta sicurezza di poter fare quello che gli pare. Due anziani coniugi sono stati feriti gravemente durante una rapina nella loro villetta vicino a Pordenone. Sono stati picchiati da tre persone che si sono introdotte in casa loro. Di fronte alle minacce, l'uomo ha aperto la cassaforte e i ladri hanno portato via l'incasso dei bar di proprietà della coppia e dei preziosi. Adriano Galliani, dopo il gol negato dall'arbitro nella partita Catania-Milan, ha scritto una lettera al presidente della FIGC Giancarlo Abete, nella quale chiede l'introduzione in Serie A degli arbitri di porta, come già fatto dall'UEFA per le partite di Champions. In chiusura un ritratto di Giorgio Chinaglia, morto ieri d'infarto. Lo chiamavano Long John, per il fisico da bisonte dell'area di rigore, per quell'accento inglese che lui, nato a Carrara, aveva preso nell'infanzia trascorsa a Cardiff, per essere stato tra gli ambasciatori del soccer negli anni 70 con la maglia dei New York Cosmos insieme a Pelé e Beckenbauer. Ma Giorgio Chinaglia grande lo era diventato con la Lazio e con lui la Lazio era diventata grande. Insieme a campioni come Wilson, Rececconi, Felice Pulici e Garlaschelli, sotto la guida di Tommaso Maestrelli, aveva conquistato il tricolore nel 73-74. In quella cavalcata trionfale Chinaglia di gol ne fece 24. Dovevano essere i suoi mondiali quelli di quell'estate in Germania, ma entrò nella storia solo per il celebre baffa rifilato al CT Valcareggi, reo di averlo sostituito nella sfida inaugurale contro Haiti. Poi l'avventura nel soccer americano e il ritorno alla Lazio da presidente per una breve stagione nell'83. Negli ultimi anni le pagine più oscure, con le accuse di riciclaggio, estorsione e aggiotaggio, e di legami con i casalesi che tramite lui avrebbero voluto mettere le mani sulla Lazio. Lui, Long John, aveva sempre negato tutto, scegliendo la latitanza in quegli States dove era ancora un mito. È stato il suo più clamoroso autogol. Questo è stato il lotito, anche vari giornalisti ci hanno detto queste cose qua. Io aspetto che mi dicano, è finito tutto, può venire in Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:28 minuti è tutto per questa edizione di GR24, che è stata curata da Daniele Biacchessi, condotta da Laura Bettini. In regia ringraziamo Roberto Scaltritti. Prossimo appuntamento è alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.